sono problemi. Va bene, sentiamo per le 5 qua. Sì, fra, ma sicuramente il piede di su, perché il capo non è nuovo, il capo. Gava, gava. Vieni qua, devi come attaccare il piede e vedere. Provo a chiedere una cortesia a Salvatore. Salvatore, come mi stai ascoltando la tua zona? Me lo potrei un controllo di radio Santiago, poi contraccambio, cambio. Fino a ieri non ce n'era. Ma tu fai, questo è un motore di ricerca. se qua ti senti dove c'è un baracchino. Allucinante, quello con le due, Dio delle numerose. 8 linee complete. Certo, se a livello tipo piazza di registrazione, mica ci hanno indicato i livelli così larghi, ampi. Ma quelli aggregati sono così, Roberto. Le radio aggregate che uso io sono così, che usano tutti i radioattori, sono tutti di quel livello, anzi ce n'è ancora più grandi. Perché sono l'ascolto del posto. Certo, ma c'è un'altra lì che sì. vecchio, non so per quale motivo, lo vendeva di meno perché non aveva la confezione, però funzionante, eccetera, eccetera. Con la stessa emissione e con la stessa modulazione, Mia che era moribondo, io qua, mi sta ascoltando da anni, tanto già le prendo, le prendi Mario. picchiato con un bastone. Yeah. qua, insomma, sta qua. Aspetta, dammi il tempo di fumarmi la sigaretta e la attacco l'altro, vai, con l'altro te ne cerco meglio. Io lo dicevo un bel forte. Ma un bel forte, no, per 20 sarebbe un altro. Magari c'è il blocco, io per un capito. Perché? c'ho anche l'altro macchino acceso, aspetta, vediamo un po'. Dai, non ne ho alternata. Non ne ho. Ma avrebbe innescato, non ho alternata, non c'entra nulla con l'innesco. Ah, ma siccome quando ci ho alternata o qualche rumorino strano, con l'altro macchino ti senti, no? Dopo non cambia niente. Anche se li stai buttando tutto quello che... Cioè, sto mullando sopra un altro baracchino vicino. Non sento niente, nulla. Ma siccome sono molto vicini, qualcosa si dovrebbe sentire, ma non si sente niente. Ah, sicuramente è un problema suo. Ma è il suo alimentatore che... Luca, l'ho fatto solo con te, però se già mi trovo non assolutamente niente. Lo so come già dite, roba. L'alimentazione non credo, perché l'alimentatore è abbastanza grande, perché non si dà nulla dall'alimentatore. Non so cosa dirti, Robert, ma dimmi una cosa, però hai detto che avevi il PL in corto, come hai fatto a saperlo? No, aspetta, ho il PL in corto, l'ho dissoldato, ho detto che sia perfetto. Ci contesto, ho misurato con te se c'è, non è il PL in corto, è il cavo, bisogna vedere su cosa è successo. Guarda che l'antenna, lavora a massa, cioè non mi viene, in cortocircuito, perciò devi staccare tu il piede dalla mantova, allora ti accorgerai se, cioè ti accorgi se il cavo è a, come si dice, in corto o meno. Luca, quando è una cosa in corto si vede, togli al massimo l'accordo, tu stai dicendo che non è in cortocircuito, non lo metto in dubbio, però se io tocco il centrale e l'esterno, la massa, non ci deve essere corto. Stai dicendo che lavora, cioè, strano, per forza trovare il segnale, se tu usi il poco calore, cioè tu misuri il poco calore proprio, ti segna il test. Mi pare strano a me una cosa del genere, è impossibile, comunque domani vi faccio anche un'esperienza di quello. Mi pare strano, già di brutto, purtroppo l'antenna, cioè purtroppo, ma guarda, usi l'antenna, poi non lo so, infatti hai tanto il franco stasera, se tu per sapere se il cavo è in corto, devi staccare il piede dall'antenna, se no oggi non fai niente, non vuoi fare saperlo. Vabbè, faccio così, allora voglio vedere domani io faccio il PL e poi faccio il controllo laggiù e vediamo un po'. Però mi sembra strano, se no non c'è la necessità di attaccarle insieme le due cose, il centrale con l'altro. Sono separati e sono isolati dall'antenna. No, certo, ma lavora sempre in corto, cioè diciamo che è in corto. E tu quando misuri ti segna, perché lavora così l'antenna. Quindi domani, perché... Ma tu hai preso il polo caldo e il polo freddo col test, è giusto? Certo, il centrale è con la carcassa del PL e non deve segnare, perché ho detto, qua c'è il PL in corto. Allora ho staccato il PL e ho misurato il cavo, la calza col centrale, e non hai fatto il circuito. Perché l'antenna, roba. Tu domani non lo attacchi bene, non te lo fa. Allora, ok, hai fatto il PL male, sicuramente. Quello dell'antenna. Vogliamo giudicarlo. Ascolta a me. Tu glielo lasci un po' di gomma al polo caldo? O glielo tagli tutto proprio a raso? No, ho fatto gomma, la devi lasciare per forza, ma sta scherzando. No, ma ne ho fatto decine e decine di PL, già mi sono comprato, non ho avuto problemi. Via. Poi ci ha fatto Gianni. Non era quello di casa, siamo andati sul tetto, era quello che c'era sul tetto. L'ho misurato con il test, prima di... l'ho staccato dal... come si chiama? Dall'antenna, poi l'ho tagliato, l'ho misurato ed era in corto, perché praticamente stava lavorando... cioè stava toccando al polo caldo o al polo freddo, poi ci vuole le stazioni da fondo scala. Capa, capa, domani dice, si fa una scappata a Claudio, vediamo un po' con lui, se lui veramente più pratico di me, ma mi sembra strano che l'antenna lavori in questo circuito, lo so, però che segni tutto negativo nel test, mi pare troppo, troppo strano. Ehi, funziona così, cazzo roba, funziona così. Tu testa la portata di mano non è, se non avessi preso il cavo dell'antenna avresti attaccato il centrale con la carcassa del PL, l'avvitatura, mi avessi detto se c'era continuità o se era libero. Io so che lavora così, no, ce l'ho il test, però non è senza batteria, però lo comprare. Ciao. ricordare di comprarla la batteria. Insomma, ne compro uno di quelli digitali, piccoli, andanti. Amano, però mi assillo. Va bene. Tu le vuoi, Robert? Non è che per, vabbè, non è che per caso. Sicuramente non è bene neanche, non tocchiamo neanche a tonciolai. Mi sembra il tasto del microfono del Milan. Ciao, vivi mai qualcuno, non sono riuscito a recuperarlo, mi si è rotto. No, c'è solo quello mio in dotazione, del Milan mio e basta, non è altro. E infatti quello non è altro. Ciao, avevo di scorta io, si vuole un altro microfono, no, quindi. Ciao, avevo di scorta, non riesco a trovarlo, bro. Ecco, non ho più di altro, lui non è pieno di roba. E gli ho detto, ma deve cercare, dai, gioco. Via, va bene. Però un po' c'è ancora Mario. Non ti ho sentito, ho visto il segnale, ma la radio mi alas. Ho detto che già si sto ascoltando. E niente, però sento solo a te, mi hanno perso, non lo sento. Vedo l'altro che si muove, fa una cosa e a me non mi ascolti, Mario. Neanche lui ti ascolta a te. Cioè, li muovi a parlare allo Smith, però no, io non ti sente. Non è colpa di te, là. Io ho finito dalla camera da letto con la scuola, la sono stata, ma adesso mi ha rotto le palle, mi fate le camera di te. È l'unica, Mario, lo spezzone, via, dai, già funziona lo stesso. Tanto è che sia tanto, non funziona ugualmente. Lo spezzone è lungo, più o meno quanti metri ce ne vogliono per arrivare in camera? Anda bene. Stano, Claudio. Tower. Ma ti ha detto che entrava Robert? Sono in ascolto, mi ha detto Claudio. Andava. Oh, ragazzi. Oh, per carità. Domani cos'è? Mercoledì, giovedì, cos'è? Vai, giovedì, è venuto Roberto, la mia officina, la dice, va bene, Luca. Ho capito. È venuto Roberto in officina da me stamattina. E vai, ma tu conosci a Luca, no? Fate, dirvi tu se mi conosci, tu. Aia. Cavagava. L'officina è venuto, ma è macchina. Ma non penso che non ti ho fatto neanche il caso, non volevo. A che lungo la vedo io, a che è venuto? No, mi pare aspetta. Questa mattina è venuto, mi pare verso le 10, le 10 e mezza, non ricordo, ma sinceramente lo so. Cosa c'avevo io? Non è macchina, non è a piedi. No, a piedi è impossibile. Ma sicuramente non è macchina. Ah, venuto con la punta del padre, sicuramente. Ma c'era pure lui la punta, guardando. No, c'è la cura del padre, no, ma non so che veniva con quella cosa del padre. Lui ce l'aveva appunto, sai che c'è quella nuova. E rosso. C'è Antonio. Sai che il Cagliari stava vincendo 3-2 con la Roma, adesso 4-3, si andava la Roma. Ora c'è. Vabbè. Ma forse si scaglie. Lì c'è stato per 2-1. Allora che giocano, si scaglie. No, sto guardando i risultati, sì, su Sky comunque la partita, non la sto guardando, la prima partita, 2-1 con la Fiorentina sta prendendo, la Juve 1-1. E tu hai guardato i tuoi risultati? I risultati li ho guardati col televisione. Pagina 2-2-1-1? 2-0-2. Ma sulla Rai? Sempre sulla Rai io li guardo. Adesso vediamo, 2-0-2, si vede? Ehi, il subetto, Cagliari 4-3, buccia, l'Inter, dov'è l'Inter? L'Inter, non lo vedo l'Inter, ma non lo vedo l'Inter, che cavolo è? Fiorentina-Inter 2-1. Adesso ho visto. Ho visto, è Mila. Ah, 5-0. Non dice che era in crisi, allora ti sono citato di questo. Oh, quando gioca il Mila non se ne fa nessuno. Che sta più in mattina sta vincendo. Allora se ne è scenda. Domenica c'è l'intervista, lo sai, lo sai meglio. Probabilmente E vabbè, infatti no, Robert, ripeto, è stato detto sì Robert, ho alternata, siccome c'ho anche l'altro baracchino acceso, perciò non sento nulla, infatti muore al strano. Ma non è tanto il problema l'ha messa anche il cavo, mi ha detto non potrà parlare da parte, il cavo l'altro parlante non si sente più niente, quando è vicino al microfono riesce a entrare. Infatti c'è, sarà molto strano. Vedi, si attacca un altro adattatore che adesso manco si mi baghi, mi bisogna un letto. Si attacca un altro adattatore sicuramente lo senti, perché Tramper mi fa questo problema qua. Zappa Luca, oh, dove vai per roba che vedo quello meglio, se no domani manco di carnavale me ne sono in scelta. Ti saluto, saluto tutti quelli che stanno ascoltando, alla Repulsi, allora speriamo domani di risolvere quel problema, sempre che ci abbia il tempo per farlo. Ti saluto, ciao alla Repulsi Luca. Ehi, ciao Robe, buonanotte. Ciao Mario, ciao a te, dai. Proviamo. Metti giù la farmacia e metti il drombo. Sentiamo le prossime. Ciao ciao.